Cantine di Franciacorta. Bentrovati, siamo alla tenuta Ambrosini a Cazzago San Martino, azienda a conduzione familiare, con Sergio Ambrosini alla guida e il figlio Lorenzo, 21 anni, pronto a seguirne le orme. Lorenzo, che ha 21 anni, il quale è assieme all'enologo altrettanto giovane, non di questa età ma un po' di più giustamente, però hanno una buona sintonia. 10 anni fa l'azienda ha cominciato a produrre da 8 ettari di vigne e bollicine di Franciacorta, fino a ottenere di recente un riconoscimento per il Saten. Sergio Ambrosini, cosa troveranno i visitatori in occasione del festival a Franciacorta in cantina? Noi per quell'occasione abbiamo organizzato la visita in cantina con la spiegazione del metodo Franciacorta e quindi la degustazione. Poi su prenotazione pensiamo di inserire un piatto tipico che è lo spiedo bresciano. È tutto, alla prossima tappa. Aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.